L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, l'altro pianeta, come sentite, cambia orario nel nuovo palinsesto, ma non contenuti e obiettivi. Parleremo sempre di ambiente e di sostenibilità ambientale. Guadagneremo anzi qualche prezioso minuto in più in questa stagione e allora facciamo fruttare questi minuti. Andiamo subito al tema di oggi. Il prossimo fine settimana tornerà per la terza edizione Seminare il Futuro, la giornata della semina a mano presso aziende agricole biologiche e biodinamiche in tutte le regioni d'Italia. Fabio Brescacin, presidente di Ecornatura Sì, che è una catena di supermercati specializzata nella vendita di prodotti biologici e naturali, ormai diffusa in tutta Italia, è promotrice di questa iniziativa. Buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. E Bruno Sebastianelli è l'altro nostro ospite della società agricola La Terra e il Cielo di Serra de Conti, in provincia di Ancona. Benvenuto anche a lei. Buon pomeriggio a tutti. Direi di cominciare subito, Brescacin, col dire il perché di questa iniziativa e che sviluppo sta avendo. Sono 3 anni, quindi sono già una discreta esperienza alle vostre spalle. Sì, noi l'abbiamo scoperta in Svizzera, e dalla Svizzera poi alla Germania, adesso si sta sviluppando in tantissimi paesi. E il tema era sensibilizzare le persone alle sementi, alla qualità della semente, perché noi non ci poniamo il problema generalmente, credo che un consumatore, una persona normale, non se lo ponga il problema della semente. In realtà il tema della semente è un tema importantissimo, è un tema fondamentale, perché voglio dire, la semente è la base su cui noi poi coltiviamo. Possiamo coltivare biologico, possiamo coltivare biodinamico, però se partiamo da una semente di qualità, avremo un prodotto di qualità. Se partiamo da una semente di non qualità, avremo un prodotto che avrà qualche difficoltà, qualche problema. Quindi il tema oggi, come sapete, ci sono due grandi correnti. Una è la corrente delle grandi aziende sementiere, quelle che hanno portato i prodotti ibridi, quelle che stanno tentando in qualche modo di far entrare i prodotti geneticamente modificati. E poi da una parte c'è un'altra corrente che si sta sviluppando, che è la ricerca, il trovare, il recuperare le sementi antiche. In mezzo ci sta tutto un lavoro che si sta facendo per creare delle sementi, diciamo, per modernizzare le sementi antiche, però per non cadere in una eccessiva industrializzazione della semente. Ci è piaciuta molto questa iniziativa e l'abbiamo portata in Italia e effettivamente sta avendo un grandissimo riscontro, nel senso che abbiamo tantissime persone che si avvicinano, perché da una parte è un momento, come dire, di gioco, e dall'altra è anche un modo appunto per pensare a questa tematica delle sementi. Ecco, è la terza edizione e abbiamo moltissima gente che vorrebbe venire, però siccome si semina veramente e quindi dobbiamo limitare il numero delle persone. Certo. Però è una giornata bellissima e l'esperienza degli anni scorsi è stata veramente quindi bella. Quindi come si fa? Si prenota praticamente? Sì, si prenota online, quindi c'è un sito online, uno può prenotarsi. Credo che alcune aziende siano già overbooked, cioè nel senso che ormai non c'è più possibilità, perché abbiamo un numero limitato a seconda della disponibilità del campo che abbiamo a disposizione e anche dell'organizzazione dell'azienda agricola. Certo. Sebastianelli, nella sua azienda agricola, pensando alle correnti di cui ci diceva Brescacin, lei dove si colloca? Noi innanzitutto noi siamo una cooperativa agricola e abbiamo scelto un'azienda all'interno della cooperativa. Noi siamo una cooperativa di 110 aziende piccole biologiche e a Serra dei Conti avverrà questa semina. Noi ci collochiamo, diciamo, più dalla parte dei cereali antichi, perché noi dall'inizio, da 33 anni che la nostra cooperativa è nata, noi abbiamo sempre ricercato le varietà antiche, abbiamo sempre ricercato e riscoperto. E dall'inizio, sto pensando all'Orzo Mondo per fare il caffè, e in questo caso, proprio la prossima domenica, noi semineremo un grano molto antico. Un grano che ha, c'è un po' una leggenda al di dietro, è una storia un po' lunga, insomma, che addirittura a noi il buon Ivo Totti, che era un po' il padre fondatore del biologico italiano, ormai purtroppo scomparso da parecchio tempo, ci aveva dato 2 spighe nel 1980. Noi l'abbiamo riseminato e lui ci diceva, purtroppo noi non siamo riusciti a risalire poi a tutta la storia per verificare se era tutto vero, perché poi nel frattempo lui è scomparso, ci diceva che una sua amica che faceva dei scavi nella zona di Volterra, nella zona etrusca, aveva trovato questi semi in una tomba etrusca. È una barzelletta, io adesso non posso dire di sicuro che è tutto vero, però noi abbiamo avuto questo grano, l'abbiamo riprodotto e adesso domenica semineremo questo questo grano antico. Senta, a volte parlando di sementi appunto antiche, si mette in relazione anche la produttività. Adesso io non ho la capacità, insomma, tecnica e anche il gergo giusto per dirlo, ma insomma rendono queste antiche sementi? Oppure, È chiaro che le moderne varietà sono state selezionate per fare le grandi rese, su questo non c'è dubbio. Però noi capisco che la resa è molto importante per l'economia agricola, però noi oggi assistiamo sempre più a degli aumenti delle intolleranze paurose. A parte la celiachia che aumenta tantissimo, aumentano anche tanto le intolleranze. Questi grani antichi noi abbiamo scoperto nel tempo che non danno intolleranza. E così il farro, così questo grano antico, così il Tanger Rock, così il Senatore Cappelli, che sono tutti cereali che erano un po' scomparsi, che sono stati poi riproposti. E è chiaro che la produzione è inferiore, su questo non c'è dubbio, però la qualità dal punto di vista organolettico e la qualità per la salute, insomma, non c'è dubbio che è molto molto meglio. Quindi magari è meglio mangiarne poca di pasta, ma mangiare qualcosa di veramente buono e speciale. E la cooperativa, nonostante la resa inferiore, ha comunque un reddito adeguato, insomma, diciamo? Sì, cioè noi garantiamo un reddito minimo ai nostri soci produttori. Noi abbiamo fatto tutto un lavoro, innanzitutto la nostra è tutta una filiera tracciata. Abbiamo fatto tutto un lavoro di controllo dei costi delle aziende e noi lo definiamo, lo chiamiamo così, il prezzo giusto. Noi ci permettiamo di non andare dietro il mercato, perché il mercato purtroppo sta uccidendo l'agricoltura italiana, ma noi con i conteggi, con l'estimo fatto da un agronomo che ci dice quant'è il prezzo giusto per far sopravvivere un'azienda agricola, noi paghiamo quel prezzo lì. Fabio Brescacin, per quanto la riguarda, nella sua catena di supermercati il prezzo giusto si può trovare, insomma? Ma noi ci impegniamo tutti a trovare il giusto prezzo per tutti, però ecco, quello che mangiamo dobbiamo anche valorizzarlo, perché è un grande valore. E è quindi un grande valore, è un valore per noi, scusi signor Divocato, è un valore per la terra, perché se noi veramente non paghiamo di più i nostri prodotti agricoli, quelli sani, anche la terra pian piano i contadini l'abbandoneranno, e purtroppo la stanno già abbandonando. In questa seconda parte dell'Altro Pianeta cambiamo argomento rispetto a seminare il futuro. Facciamo un po' di bilancio di una bella collaborazione avviata da qualche tempo tra Levissima, l'acqua Levissima, e AMSA, la società del gruppo A2A che gestisce i servizi ambientali di Milano. È un progetto di raccolta differenziata che riguarda 7 parchi cittadini. I nostri ospiti adesso saranno Daniela Murelli, direttore Corporate Social Responsibility di San Pellegrino, che è il gruppo di cui fa parte Levissima, e Danilo Vismara, responsabile marketing di AMSA. Cominciamo con lo spiegare di che si tratta, Vismara. Ma diciamo che abbiamo risposto a un'esigenza più volte rilevata sia da parte del Comune di Milano, ma anche erogando i servizi di raccolta rifiuti. Ci siamo accorti che nei parchi sempre di più si creavano dei luoghi di aggregazione legati magari al consumo di un pasto durante la settimana, piuttosto che di veri e propri picnic da parte delle famiglie nel sabato e la domenica, e i nostri contenitori che erano posizionati all'interno di questi luoghi per la raccolta di rifiuti risultavano spesso insufficienti, e quindi su questo li abbiamo chiaramente integrati, potenziati, ma soprattutto non adatti a una raccolta differenziata, a una raccolta separata, su cui invece AMSA e il Comune di Milano hanno sviluppato in questi ultimi 10 anni un sistema di raccolta domiciliare, quindi per i condomini, per le utenze domestiche o per gli esercizi pubblici all'interno dei condomini, che chiaramente sta dando dei risultati ottimi sulla separazione dei rifiuti sia in termini quantitativi che qualitativi. E quindi, collaborando con San Pellegrino, è nata questa idea di rispondere a questo tipo di esigenza sperimentando una soluzione di raccolta differenziata proprio all'interno delle aree verdi, posizionando dei contenitori multiscomparto che chiaramente dovevano avere delle indicazioni precise per il conferimento e la separazione, riprendendo anche di fatto i colori utilizzati per i cassonetti che sono distribuiti invece all'interno dei condomini, e puntando su quelle frazioni che tipicamente possono essere legate appunto al consumo di cibi o di bevande all'interno di un'area verde, quindi fondamentalmente contenitori in plastica o in alluminio, vetro, quindi contenitori, bottiglie in vetro, eventuali scarto del pasto consumato e quindi uno scomparto dedicato alla raccolta dell'umido, e poi la restante parte invece per il rifiuto indifferenziato. Questo ha riguardato 7 parchi in Milano, corretto? Diciamo precisamente sono 6 parchi dove abbiamo posizionato, grazie alla collaborazione con San Pellegrino, abbiamo posizionato 8 contenitori. Ci sono 2 parchi dove abbiamo presidiato con 2 aree picnic, quindi con 2 di questi contenitori. Sono stati utilizzati questi contenitori o avete trovato magari più pieni quelli ancora esistenti, vecchio stile, quindi indifferenziati? No, diciamo che sono stati utilizzati. È chiaro che bisogna essere franchi, la tipologia di separazione è chiaramente indicata dalla presenza del contenitore multiscomparto, però se andiamo a vedere la quantità di rifiuto raccolto, sicuramente siamo a buoni livelli, perché noi garantiamo comunque una vuotatura quando il contenitore è in pieno, e rispetto a una partenza che prevedeva una vuotatura una volta alla settimana, in realtà i contenitori sono stati vuotati più volte alla settimana, quindi questo è un indicatore del fatto che il contenitore sia stato utilizzato. Sulla qualità del materiale conferito è chiaro che non possiamo paragonarla all'eccellenza, direi così, della raccolta fatta presso i condomini, dove il cittadino residente ha ormai, voglio dire, un certo tipo di esperienza e quindi conosce perfettamente come separare i rifiuti e utilizza correttamente il contenitore che ha sotto casa. Nel caso invece di questi contenitori multiscomparto dobbiamo ancora lavorare magari in termini di comunicazione per avere una qualità buona dei vari imballaggi, dei vari rifiuti conferiti. E certo, perché poi ne va della qualità della raccolta e di lì tutta una serie di altre implicazioni, insomma, che non dobbiamo dimenticare. Daniela Murelli, com'è nata l'interesse di Levissima per questo tipo specifico di iniziativa? È vero, Levissima è un'acqua in bottiglia, quindi c'è la plastica, eccetera, eccetera, ma qui si va su un discorso ancora più ampio rispetto alla raccolta del PET. Si va assolutamente su un discorso di sensibilizzazione del cittadino. Quello che infatti stiamo facendo come gruppo San Pellegrino, e quindi soprattutto col marchio Levissima, che è un po' il nostro faro per quanto riguarda tutte le iniziative di sostenibilità, è quello di innanzitutto far capire ai cittadini che quando si parla di plastica non si parla in modo particolare sul PET, che è il materiale di cui sono fatte le bottiglie dell'acqua minerale, non si parla di un rifiuto ma di una risorsa, perché se opportunamente avviato alla raccolta differenziata e quindi al riciclo, si può trasformare in tantissimi altri oggetti, se non addirittura in altre bottiglie di plastica per acqua minerale. Quindi abbiamo iniziato già in alcuni anni fa anche con AMSA ad un lavoro proprio di sensibilizzazione della cittadinanza, e molto spesso però si guarda quello che si fa tra le mura domestiche, e ci siamo quindi domandati che cosa succede quando siamo fuori, visto che il consumo di acqua in questo caso è comunque elevato, soprattutto nella stagione estiva, anche out of home, come normalmente diciamo noi. Volevamo essere pronti e comunque dare un supporto anche all'esterno, e abbiamo fatto una ricerca, quindi che ha dei dati interrogato. Molto interessanti, sì, questa ricerca molto interessanti, perché appunto si parla degli italiani nella natura e quindi all'esterno, ecco. Esattamente, quindi abbiamo visto che in tutta Italia, e in particolare poi a Milano c'è in Lombardia c'è una frequentazione dei parchi ancora superiore alla media nazionale, e nello stesso tempo anche un po' un disagio, perché circa il 90% delle persone che frequentano i parchi hanno espresso un giudizio del genere, e molto spesso è legato proprio al desiderio di comportarsi in una maniera rispettosa della natura, ma l'assenza di strutture adeguate. Quindi detto, cominciamo con un pilota, cominciamo con la realtà milanese, che è quella che conosciamo meglio, e vediamo come funziona. E come diceva anche Vismara, i risultati sono assolutamente buoni, quindi a noi piacerebbe addirittura poter estendere queste strutture, questi contenitori, anche in altri parchi. Senta, la collaborazione, diciamo, oltre che su una linea di principio, immagino sia stata anche economica. È un impegno interessante, sono delle logiche di partnership, e ovviamente l'impegno è crescente, quindi si cerca di fare quello che si riesce in contesti ovviamente in cui puoi avere dei riscontri, perché l'investimento sia tangibile, nel senso che effettivamente porti buoni frutti, in modo tale da poi poter eventualmente migliorare o addirittura incrementare l'investimento nel momento in cui queste cose hanno una rispondenza positiva da parte della cittadinanza. Bismara, sa cosa mi piace molto anche di questa cosa? Che siano stati i cittadini, attraverso questo sondaggio, a rendere nota la loro volontà di fare di più e fare meglio. Non è più l'AMSA che deve insistere, ma è finalmente anche una certa quota di cittadini, più consistente che in passato, a dire lo vogliamo fare. Questo tipo di indagini è chiaro che poi si legano ad altri strumenti che noi come azienda di servizio insieme al Comune di Milano utilizziamo, che sono poi indagini di customer satisfaction, che chiaramente sono legate a capire la soddisfazione del cittadino, del cliente, dell'utilizzatore del servizio AMSA, e ci danno anche tutta una serie di indicatori di come rimodulare o riprogettare i servizi. Però anche questo tipo di ricerca, ma soprattutto la collaborazione con San Pellegrino, ci ha fatto emergere una situazione a cui a questo punto è stato molto interessante creare una situazione di partnership che, al di là del valore economico, adesso tento di rispondere io alla domanda che faceva prima Daniela Morelli, l'importante è proprio il fatto che più soggetti all'interno di una filiera, perché qui stiamo parlando di un'azienda che si occupa di raccolta e di trattamento finale dei rifiuti, ma a monte c'è invece un produttore e un utilizzatore di packaging, quindi San Pellegrino Levissima, e questi due soggetti che si legano e tentano di dare di fatto una risposta a un'esigenza che nasce dal cittadino e quindi da chi comunque poi produce alla fine il rifiuto, è molto interessante e ha avuto diverse valenze, non solo in merito a questa di cui stiamo parlando questa sera, ma anche ad esempio ad attività di sensibilizzazione e di informazione agli studenti delle scuole, con un progetto che, non so, magari Daniela Morelli può anche accennare, che è stata una parte interessante della collaborazione tra AMSA e San Pellegrino. Daniela Morelli, sì, voleva aggiungere? Assolutamente accennerò il progetto, perché è qualcosa che mi sta molto a cuore. Allora accenni subito, perché stiamo andando verso la conclusione. Assolutamente, sono avanti. Giusto un accenno a quello che invece diceva lei, l'importanza dei cittadini e il fatto che sono loro stessi a chiedere cose di questo genere. C'è un'altra ricerca interessantissima in cui si evidenzia come il cittadino, per sentirsi tale, ha sempre più bisogno di essere responsabile in termini di sostenibilità, e addirittura si riconosce e cerca di stimolare le aziende perché si comportino in modo sostenibile e diano gli strumenti al cittadino stesso per poterlo essere. Quindi questa è un'evidenza forte che sta uscendo da tantissime indagini che vengono fatte. Relativamente all'ultimo punto e anche alla collaborazione che ormai è in atto da un po' di anni con AMSA, sono state anche fatte delle iniziative sulle scuole, dove proprio con esperti di AMSA si va a parlare agli studenti delle scuole primarie per cercare di far capire loro effettivamente cosa succede dopo che i vari materiali sono stati raccolti in modo differenziato, e stiamo lavorando sulla cosiddetta R generation, quindi la generazione del riciclo, ed è qualcosa che si ripeterà anche quest'anno a partire da ottobre in una buona parte delle scuole milanesi. Allora io vi ringrazio Daniela Morelli, io la rinvito quando ci sarà la prima oasi ecologica in un parco fuori Milano. Danilo Bismara, grazie anche a lei per essere stato con noi. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto con Radio 24. Vi ricordo l'altro pianeta @radio24.it.